La Rosa Purpurea di Franco D'Assisti. Ben ritrovati amici alla Rosa Purpurea, un saluto da Franco D'Assisti, buon sabato e buon cinema a tutti qui da Radio 24. Come sempre consigli per il cinema in sala, ma vogliamo cominciare questa puntata con l'omaggio. Non lo facciamo quasi mai perché la vita è così. I grandi attori, i grandi artisti scompaiono, ma di solito lo fanno a un'età dove la natura dice la sua. Invece per Philip Seymour Hoffman non è stato così. Non è stato così, a 47 anni ci ha lasciato quello che per me era il più grande attore del cinema americano contemporaneo. L'ho scritto sulla nostra pagina Facebook, molti di voi so che sono d'accordo, e allora vogliamo solo fargli un omaggio, ascoltarlo in lingua originale, ascoltarlo per pochi secondi in sue tre indimenticabili interpretazioni: Truman Capote, Il Grande Lebowski e Magnolia. Final scene when the bellhop told me I had a phone call. And it was my stepfather, Joe Capote, calling to say that my mother had died. I flew home to New York, terribly distraught. Recognition of his various civic Oh, that's the Los Angeles Chamber of Commerce Business Achiever Award, which is given, well, not necessarily given every year, hey, given only when there's a worthy somebody. Is this him with the... So why call me? I know this sounds silly, and I know that I might sound ridiculous, like this is the scene of the movie where the guy's trying to get a hold of the long-lost son, you know, but this is that scene. Avete sentito? Tre Philip Seymour Hoffman sembravano tre attori diversi, invece era lui che era veramente tanto tanto grande, e mancheranno i suoi prossimi film, i film che non vedremo mai di Philip Seymour Hoffman. Hang me, oh hang me, I'll be dead and gone. Hang me, oh hang me, I'll be dead and gone. Wouldn't mind the hanging, but the laying in the grave's so long. Sarei tentato di lasciarla su per tre minuti questa canzone, che è una delle belle, bellissime canzoni composte per il nuovo film dei fratelli Coen, A proposito di Davis, titolo italiano, titolo originale Inside Llewyn Davis, dentro, in fondo, nel profondo di Llewyn Davis, che è il giovane cantautore folk che sentite sul sottofondo, interpretato da Oscar Isaac, che nel Greenwich Village newyorkese, patria del folk americano degli anni 60, cerca di rivoluzionare un genere che è ancora un po' legato agli stereotipi delle arpe celtiche, dei cori, quando invece, e lo vedremo nel film, sta invece per abbattersi sul mondo del folk americano un signore che si chiama Bob Dylan. Questa è la storia di uno che invece non ce la fa, forse perché è perdente autolesionista di suo, forse perché non riesce più di tanto a essere lui maturo prima di cercare una risposta matura da parte del pubblico e del mercato musicale. Sentiamo questa clip. Sai, tu non vuoi andare da nessuna parte, perciò le solite cazzate continueranno a capitarti, perché tu vuoi così. Il motivo è questo? Sì, e anche perché tu sei uno stronzo. Cosa hai detto che suoni? Canzoni folk. Canzoni folk. Solista? No, avevo un partner. Si è buttato giù dal George Washington Bridge. Il George Washington Bridge? Uno va a gettarsi giù dal Brooklyn Bridge, tradizionalmente. I still might strike it lucky on a highway going west. Now I'm traveling on a path beaten trail. Please, Mr. Kennedy, Please Mr. Kennedy è un'altra delle straordinarie canzoni composte proprio per questo film. Boris Sollazzo in collegamento con noi, ciao Boris. Buongiorno a tutti, buongiorno a te. Beh, insomma, a me questo film dei fratelli Coen è piaciuto, ho sentito nasi storcersi qua e là, però trovo che sia un film maturo per la leggerezza del racconto, ma con l'amarezza dei fratelli Coen, per una fotografia straordinaria, desaturata, di una New York che diventa quasi in bianco e nero, e poi per averci rivelato, è vero che Oscar Isaac lo conoscevamo, aveva già fatto tante cose in passato, per esempio in Drive, il marito geloso della protagonista, però insomma qui lo ha veramente consacrato a un grande attore protagonista. No, lo scetticismo di chi l'ha criticato francamente non lo capisco, perché mi sembra un film straordinario. Io non sono un grande fan dei Coen, che hanno assunto quarti di nobiltà presso critica e pubblico con e dopo l'Oscar, perché secondo me avevano perso quella capacità di ritrarre in maniera affettuosa ma mai condiscendente un'America perduta e perdente, Lost and Loser. E qui tornano secondo me a quella felicità di racconto, a quella voglia di entrare dentro un uomo che ha tutto per sbagliare ma anche un talento straordinario, come appunto Dave Warronk, che qui diventa Llewyn Davis, maestro di Bob Dylan, Johnny Mitchell, ma che non insegna a se stesso né ad avere successo né a vivere una vita normale. La storia di un emarginato che vuole esserlo, un outcast che vuole esserlo, perché probabilmente il sistema, uno come lui, non lo potrà mai capire e lui non potrà mai capire il sistema. Quindi all'interno di una biografia in cui, come hai detto tu, giustamente Oscar Isaac è clamoroso, è straordinario, fino adesso era stato provato in ruoli di appoggio, ma qui come protagonista riempie la scena in maniera straordinaria, si arriva a un film, secondo me, tra i migliori della cinematografia dei Coen, in cui tutto va benissimo, dalla colonna sonora, che è perfetta, che giustamente tu hai fatto sentire in parte, fino a ogni singola partecipazione. L'unico neo, se proprio lo vogliamo trovare, è la solita Carey Mulligan, che non riesce a uscire fuori dalla sua icona piagnucolosa e un po' decorativa, ma glielo si può perdonare perché il film è davvero eccellente. E allora, promosso a pieni voti, a proposito di Davis, dei fratelli Coen, nei cinema italiani da questo fine settimana, noi andiamo a giocare con la prima traccia del film misterioso di oggi. La domanda è la seguente: accetteresti una cenetta romantica con me? No. Grazie, ma non mi aiuti per niente. Bene. E allora, di che film si tratta? La Rosa Purpurea @radio24.it, il titolo del film se l'avete già riconosciuto, il vostro indirizzo per provare a ricevere, se sarete fra i primi due ascoltatori a indovinare, il Blu-ray di questo film. Più tardi vi farò ascoltare un'altra traccia. Andiamo ad ascoltare invece una clip di un altro film che riporta in sala un grande nome del cinema hollywoodiano come quello di Robert Redford. Qui è il Virginia G, chiamate di soccorso, passo. Qui è il Virginia Jean. Chiamata di soccorso, passi. Insomma, avete capito, non è che ci siano molte parole. Qui è tanto mare, tanta burrasca e Robert Redford da solo in mezzo a questo viaggio nell'oceano indiano dopo che il suo yacht ha subito una collisione con un container abbandonato. E lì si apre il grande racconto della sopravvivenza umana con Redford protagonista. Il film è All Is Lost. Boris Sollazzo, un minuto per raccontarci, soprattutto se vale la pena di vederlo o no. Guardate, la discriminante è a monte. Quello che avete sentito è praticamente tutta la sceneggiatura, tutto il testo che c'era in All Is Lost. È un film su un naufrago in solitaria che appunto fin dall'inizio vive un inferno fatto d'acqua e di cielo e basta. C'è un Robert Redford clamoroso, non solo come attore ma anche e forse soprattutto come atleta, ed è un film sull'uomo contro la natura. È un film faticoso, tanto faticoso per lo spettatore quanto lo è per Redford resistere alla natura, però secondo me è anche un film clamoroso perché Chandler riesce a rendere protagonisti il mare, la barca, come se fossero una cosa viva, e a sfruttare al meglio, come forse mai prima d'ora, le doti sportive e interpretative di un grandissimo come Robert Redford. Se accettate questa sfida come l'ha accettata Robert Redford, è un film che vale la pena di vedere, altrimenti scegliete un altro film. Ecco, hai ricordato in certi momenti certi istanti della prima parte di Vita di Pi, se vogliamo, sempre nella logica della sopravvivenza. La Rosa Purpurea. Seconda parte della Rosa Purpurea, come promesso che c'è a parlare di cinema italiano, perché c'è un film questa settimana che finalmente vale la pena del nostro spazio, no? Adesso, a parte gli scherzi, però comunque è un film che ci dà una bella botta d'aria fresca per come è fatto e per quello che dice. Smetto quando voglio. Adesso chiederemo fra poco a Sidney Sibilia, il regista, Smetto quando voglio di fare cosa. Però è un film, sì, certo, generazionale, ma che racconta una generazione che è diventata molto larga e non è più neanche così tanto giovane, tra l'altro. Quindi sta cominciando, ai noi, a raccontare un po' il core dell'Italia che dovrebbe lavorare, che dovrebbe essere l'Italia produttiva, e invece non ci riesce. Sapete perché? Perché ha studiato troppo. Niente, alla fine mi sono fatto 2 anni dentro per un fa in fame con un amico. Poi sono uscito, sono andato a lavorare al cantiere da mizio. Va tutto bene fino a 3 mesi fa che si è morto. Mi dispiace. Ma non ha sofferto, eh. Cioè, la coltellata gli è andata bella precisa qua proprio sulla carotide, sì. E poi c'aveva pure ragione quello che gli ha data la vecchia storia di poker online. Comunque, e là scoppia il casino perché i figli cominciano a litigare, si sono scannati per eredità. C'è stata una spregiativa legale per la divisione dell'eredità, c'è stata tutta... le famiglie sono così, no? Se litiga per i soldi, come al solito. Scusa, che hai detto? Che ha detto che i figli hanno cominciato a scannarsi, è sempre così i soldi, no? Cioè, quando ci stanno i soldi... No, no, hai detto un'aspra diatriba legale. Che? Io non so manco che vuol dire. Tu sei laureato? Non sono laureato io. Ragazzi, io sono stato chiaro, non assumo laureati. Ma non sono laureato, ma mano che c'ho da scuola a terza media che spegnevo il fumo. Non siete affidabili. Ma che stavo qua se ero laureato? Abbiamo pazienza, no? Sei il terzo sta settimana. Non sono laureato... Vabbè, sono laureato, sì. Sì, ma guardi, è un errore di gioventù del quale sono profondamente consapevole. Beh, direi che questa clip straordinaria condensa un pochino quello che è lo spirito del film: fuggire dalle lauree per trovare un lavoro. Questa è una società che, per quello che l'Italia, ed è una considerazione molto amara, sta dando in questo momento, è una società troppo scolarizzata. Sidney Sibilia, è questo il punto di partenza? Intanto benvenuto alla Rosa Purpurea, ma dico, grazie, è questo il punto di partenza del tuo film, insomma? Sì, vabbè, poi questa è l'esasperazione del classico, lei è troppo qualificato, l'overqualified, no, lei è troppo qualificato per questo lavoro, che è ormai un classico che le persone un po' se lo sono sentiti dire, quelli che fanno i colloqui e tutto il resto. Noi, diciamo, abbiamo giocato con questa cosa qui, insomma, però sempre è una commedia, anche se poi ha un risvolto amaro. In qualche modo, però è una commedia, ne vogliamo, sì, far ridere. E infatti, no, ma ci riuscite abbastanza bene. Devo dire, smetto quando voglio, dicevo prima, di far cosa? Ma smetto quando voglio è la frase, intanto è una frase generazionale, è una frase della mia generazione, della frase che contiene, mentre afferma, in realtà una negazione. Quando tu dici smetto quando voglio, il tuo interlocutore sa che non accadrà, in realtà, in qualche modo. E c'è sostanzialmente poi la frase dei tossici, no? La frase che poi ci richiama all'uso delle sostanze stupefacenti, delle droghe, perché il film poi, tra le altre cose, parla anche un po' di questo. Certo, assolutamente. Ricordiamo in breve proprio la trama di questo universitario ricercatore che non viene confermato e si ingegna in qualche modo a trovare, attraverso la creazione di una nuova sostanza stupefacente, una via di uscita alle sue miserie, diciamo, legale, tra l'altro, fino a quando poi non diventerà ovviamente spaccio o consumo, insomma, ecco. E questo è un po' il racconto, che però quello che io trovo, tu dicevi prima, amaro, insomma, comunque sicuramente da far riflettere, è che quando si faceva la commedia sul precariato, chiamiamola così, 20 anni fa, 10 anni fa, si raccontavano i 20-25 anni neolaureati costretti ai call center, oppure si raccontava gente che non aveva una grande scolarizzazione e allora non trovava altro. Qui tu vai a raccontare, alzi il tiro, alzi il target anagrafico e ci porti fra i 35 e i 40 quasi, no? Quindi sì. questo secondo me è la novità, ed è la novità che purtroppo fotografa uno stato del paese. Guarda, in realtà noi all'inizio, quando abbiamo cominciato a scrivere questo film qualche anno fa, perché poi i film hanno dei tempi di gestazione un po' complessi, no? Durano 2-3 anni, e quando abbiamo iniziato io pensavo a una storia di trentenni, fin quando poi non è, a un certo punto non era credibile. Cioè, adesso quando uno ha 30 anni e non ha lavoro ti veniva di dire ci mancherebbe, cioè io ho 30 anni, diciamo che non ho un lavoro, e quindi, e allora abbiamo dovuto alzare l'età, perché altrimenti non li giustificavi, sembrava una cosa surreale. E siamo arrivati ai 40, che poi è l'età dei ricercatori, insomma, è quando ci si comincia a fare le domande. A 30 anni sarebbe stato quasi banale. Senti, no? Sidney, questo è il tuo film, diciamo, il primo lungometraggio, però tu, sì, ovviamente, è un passato dietro la macchina da presa per corti. Dove nasce, dove si ciba il tuo immaginario cinematografico? Vabbè, c'è tutto in quel film, è talmente evidente. Insomma, io parto dalla mia formazione, è quella là proprio dei film degli anni 90, però non ho fatto scuole di cinema, quindi mi nutrivo di quello che vedevo, fino ad arrivare alle influenze più moderne, dalle serie americane alle ai film che noi abbiamo fatto prima di iniziare, proprio un elenco, una lista di tutto quello che ci piace, per cercare di fare un film coerente, perché io sarei andato a vedere, perché quelli della mia età, quelli che hanno un gusto affine al mio, sarebbero andati a vedere, insomma, che si spera non siano pochi, insomma. Assolutamente. Allora ricordiamo il cast: Edoardo Leo, Valeria Solarino, Valerio Aprea, Paolo Calabresi, Libero De Rienzo, che ritroviamo insomma con grande piacere. Anche qui hai lavorato con un mix di attori più affermati e grandi scoperte. Sì, volevamo fare una... E quando fai un film di banda, io non pensavo tanto al singolo, pensavo all'armonia, no? Poi sono tutti in scena sempre, quindi pensavo a un gruppo più che altro. E poi sono semplicemente... sono i più bravi a fare quel ruolo, quindi ci abbiamo fatto un'impostazione ultra classica: fai i provini, vedi chi è il più bravo e lo prendi, che sembra una cosa, una novità pazzesca, ma in realtà è la cosa più vecchia del mondo. Dovrebbe essere così, effettivamente. Sì, era di una banalità inaudita. Io poi mi imbarazzo a dire: è stato banalmente i più bravi a fare quel tipo di ruolo lì. Certo. E allora ricordiamo, il film tra l'altro è partito molto bene nei primi giorni di distribuzione in sala. Quante sale a disposizione? 250. Beh, neanche poche, insomma, tutto sommato. Ma è proprio, noi in realtà volevamo fare un film più piccolo, cioè un po' esploso in mano. Intanto mandiamo il nostro pubblico a vedere con il marchio, sì, il bollino rosa purpurea, questo, questo film. Esatto, approved, provided by, smetto quando voglio, di Sidri Sibilia, che ringrazio tanto per essere mille, stato qui con noi. In bocca al lupo. A voi. Grazie. Crepi, grazie mille. Allora, Sidney Sibilia, regista di Smetto quando voglio, davvero un film molto molto divertente e con dei contenuti. Giochiamo ancora insieme con la seconda traccia del nostro game. Io so perché tu sei un maschio. Che? Lo sai? Per la pelata. Ah, sì. È liscia liscia. A volte la guardo e penso che possa uscire un pulcino da lì. Allora, avete indovinato di che film si tratta? Scrivetecelo alla rosapurpurea@radio24.it e provate a vincere una copia in Blu-ray di questo film, che sveleremo e recensiremo la prossima settimana per i primi due ascoltatori che indovineranno. A questo punto noi andiamo avanti perché dobbiamo entrare nel magico mondo dell'home video. Ci siamo già un po' entrati con il nostro game, ma dobbiamo soprattutto risolvere il bellissimo game della settimana scorsa. Colemonia, o si ricordi chi? O si ricordi la valutù? Scusi, ma io non capisco. Conemi di su, alle cose fisco. Parlez-vous français? Tu lì, no, che ne vede zucchini, a rozzinc. Proviamo un po' col chiacchieratore. Come si sente adesso? Oh, sì, molto meglio. Giulio, ci sei? Sì, ci sono. Giulio Franco, San Giorgio, ciao. Eccolo qua. Ciao, ciao Giulio. Un film, diciamo, per quelli che non hanno proprio più 20 anni, ecco. Però è stata una grande scoperta, una grande riscoperta, una bellissima edizione di cui adesso Giulio San Giorgio di Film TV ci parlerà. Stiamo parlando di Barbarella, che era il titolo con cui abbiamo giocato la settimana scorsa. I vincitori sono stati Gianluca Carsillo di Roma e Roberto Teleman di Riva del Garda, provincia di Trento. Saranno loro a ricevere l'edizione riscoperta di Barbarella, perché era un film, Giulio, di cui da un po' di tempo si erano perse le tracce, almeno in un video. Sì, assolutamente, un film di Roger Vadim che s'apre con uno spogliarello integrale di Jane Fonda nello spazio ed è un delirio fumettistico e libertino di fantascienza ed estetica pop e lisergica. È sicuramente un oggetto di culto, tanto che Nicholas Winding Refn, il genietto di Drive, solo Dio perdona, ne sta producendo un rifacimento in forma serie TV. E in effetti è stato un film che per anni è stato introvabile e oggi finalmente è disponibile in DVD Sinister Film, distribuito da Cerchi Rory. Il video e l'audio sono dignitosi per un film di 50 anni fa, gli extra sono scarsi, ma quel che conta per un film così è assolutamente che il DVD esista. Assolutamente, un film da vedere, Jane Fonda di una bellezza straripante in quel film, e parte è diventata veramente un'icona, la Jane Fonda di Barbarella. E allora, questo era il nostro game della scorsa settimana. Come sempre però ci facciamo dare anche un paio di consigli in TV dagli amici di Film TV, cominciando, e oggi cinema italiano, cominciando dal passaggio domenica 9 febbraio di Speriamo che sia femmina. Sulla Sette alle 14:40 di domenica, uno dei film di maggiore successo degli anni Ottanta, una commedia di costume diretta da Mario Monicelli, che orchestra un coro di voci femminili e canta un omaggio alla donna ridimensionando acidamente l'uomo, anche se poi sono gli uomini le macchiette indimenticabili. Io su tutte ricordo L'irresistibile zio Gugo di Bernard Blier. E questo era Speriamo che sia femmina, ricordiamo, sulla 7, domenica 9 febbraio alle 14.40. E invece, a proposito di omaggi, abbiamo aperto la trasmissione con un omaggio a Philip Seymour Hoffman, la chiudiamo con un omaggio a Carlo Mazzacurati, anche lui scomparso prematuramente un paio di settimane fa, e con un film che è il film che gli ha dato il, forse non è il suo miglior film, ma è il film che gli ha dato il premio più alto, il riconoscimento migliore, ovvero Il Toro. Sì, Removie ricordo Mazzacurati martedì alle 13.55 con Il Toro, storia picaresca e di critica sociale di due uomini alle strette nella vita e del loro viaggio verso l'Ungheria, dove vogliono rivendere un pregiato toro rubato a chi ha licenziato uno dei due fratelli. È una commedia on the road che sa prendersi il suo tempo e guardare anche ai suoi tempi, sulle note di Ivano Fossati. Appunto ha vinto un riconoscimento importante come Leone d'Argento a Venezia e la Coppa Volpi a Citrano, coprotagonista insieme ad Abate Antuono. Film assolutamente da recuperare, martedì 11 febbraio, 13.55, Rai Movie. Grazie Giulio e a risentirci. Ciao Franco, alla prossima. E allora siamo arrivati quasi alla fine della nostra trasmissione. Vi ricordo due cose: la classifica dominata da The Wolf of Wall Street di Martin Scorsese, arrivato alla fine dello scorso weekend a 7.900.000 euro di incasso, e ancora ne sono arrivati durante questa settimana. Ma attenzione anche all'Exploit, secondo posto per Tutta colpa di Freud, dicevo, l'Exploit di Belle Sebastien, che è partito molto molto forte, il film diciamo così di Nicolas Vanier, che ripercorre la storia alla base di uno dei più amati cartoon degli anni Ottanta. Ebbene, 2 milioni di euro nel primo weekend, tanto che sono state aumentate le copie, quindi è una storia che sta funzionando molto in Italia. Poi vi ricordo la pagina Facebook La Rosa Purpurea Radio 24, cliccate mi piace, state con noi tutta la settimana. Grazie a tutti per averci seguito, appuntamento fra 7 giorni alla Rosa Purpurea, un saluto da Franco D'Assisi.